Stesi alla luce del giorno, con gli occhi annegati nel mondo, senza più malinconia che mi porti via, neanche l'idea. Non c'è niente che cambierei, ci stavo già pensando. In quel baretto semivuoto e ti spizzavo in mezzo ai fianchi di un barolo. Ehi, non mi hai guardato ma mi hai visto e manco poco. Caccio un piccione con un mezzo caccia vuoto. Poi ti parte fuori gioco, rubo un bacio e te lo porto. E dice fuori corso, beve a goccia un po' di mosco. In radio c'era passo, passo, passo, passo. Ti metterei 200.000 like a quella foto. Corso Trieste, piccola peste. C'hai 18 anni, CBCR. Ti sta una crema e il tuo dialetto di Cremona. Sabina bene bene quello mio di Roma. Ti faccio un fischio, non squillo scende. Mi prende in giro, fa gna gna gna gna. Andiamo in sushi e tutti mangigli da mame. Io che sono andato per una vita matriciana.